senza distratto qui piove già la luna. Già, già. Già. Già. Già luna. Giravo in una stanza, non vedevo neanche me. Dimmi per quanto manca il cielo di notte. Che c'ho quattro sogni in tasca e luci da prendere. Se quando la fine manca l'aria, suono su un piano quel buio. No, qui non sente nessuno. Se non ci stai, scusa se prende e mi butto. Lascio nel mondo uno sputo. Se non ci stai, te. Se non ci stai, te. Giravo Milano con colo in testa. Stavamo girando due storie. Distratto, distratto qui piove già la luna. Già, già. Già. Già. Già luna. Quel comodino e quelle cose che non metterò. Il tavolino e quel cuscino che mi ha fatto lei. Quasi quasi brucia tutto.